Hai bisogno di sostegno economico e sociale? Se hai bisogno di sostegno economico e sociale, a chi ti rivolgi? Se hai bisogno di sostegno economico e sociale, ti rivolgi allo sportello sociale del tuo quartiere. Lo sportello sociale ti dà le informazioni che ti possono essere utili. Se ti serve, attraverso lo sportello sociale prendi l'appuntamento con l'assistente sociale. Trovi l'indirizzo, il telefono e gli orari dello sportello sociale qui sotto.